Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Uno dei concetti chiave del risparmio energetico è connesso a due dati fondamentali chiariti, si può dire, agli inizi della scienza termodinamica, più o meno tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Il primo è che l'energia non si crea e non si distrugge, mentre si trasforma da un tipo all'altro. Il secondo è che non tutti i tipi di energia sono uguali. L'energia elettrica, per esempio, è particolarmente pregiata perché può essere trasformata efficacemente in energia luminosa, meccanica oppure termica. Insomma, è una forma di energia molto flessibile. Il calore invece può essere trasformato in altre forme di energia, per esempio proprio quella elettrica, solo pagando un prezzo, cioè accettando di dissiparne una quota significativa, sempre sotto forma di calore, ma questa volta meno disponibile, cioè a temperatura più bassa. Perché vi facciamo questo ripasso di fisica? Perché questo ci porta ai concetti di cogenerazione e trigenerazione di cui parleremo stasera, ovvero proprio di quelle modalità che consentono di sfruttare al massimo il potenziale energetico dei combustibili che bruciamo tutti i giorni in casa, per esempio il metano. Ne parliamo con Ennio Macchi, docente di conversione dell'energia al Politecnico di Milano. Buonasera Macchi. Buonasera. Dunque, partiamo dalla cogenerazione. Le chiedo di spiegarci che cos'è brevemente e a quale principio risponde. Sì, la cogenerazione è la pratica termodinamica per cui si produce contemporaneamente energia elettrica e calore a partire in genere da un combustibile. E questo comporta, diciamo, per definizione un potenziale risparmio energetico rispetto alla produzione separata di energia e calore. C'è una specie di delitto termodinamico che si consuma dentro le case e le abitazioni un po' di tutti. Sì, cioè il concetto è che i combustibili, in particolare il gas naturale, che è il combustibile più utilizzato per questo tipo di applicazioni, ha un altissimo potenziale energetico e utilizzarlo con un processo molto irreversibile, come una combustione, per trasmettere poi il calore così prodotto a bassissima temperatura, qual è la temperatura richiesta per un riscaldamento degli ambienti che bastano poco più di 20 gradi per riscaldare gli ambienti a temperatura confortevole, diciamo è uno dei processi peggiori da un punto di vista termodinamico, perché si parte da un'energia altissimo potenziale, la si dissipa ricavando energia viceversa a potenziale molto basso. Quindi conviene tirar fuori da questa energia di partenza almeno tutta l'energia elettrica che si riesce. Esattamente, cioè conviene usare la frazione più nobile, diciamo, dell'energia prodotta trasformandola in energia elettrica, e poi invece di buttare via il resto del calore come si fa in una centrale termoelettrica convenzionale, utilizzare questo calore a fini utili appunto per il riscaldamento. Quindi l'energia è un po' come il maiale, non bisogna buttare via nulla. Esattamente. Senta, quali sono le tecnologie con cui prevalentemente si realizza la cogenerazione? Ma qualsiasi motore termico può essere trasformato in un impianto cogenerativo, quindi può andar bene il classico ciclo a vapore usato nelle centrali termoelettriche, basta condensare a temperatura più elevata e usare quindi il calore di condensazione a alta temperatura come calore utile. Vanno benissimo le turbine a gas che scaricano i gas caldi da cui può essere recuperato il calore, vanno bene i cicli combinati che sono la tecnologia più efficiente oggi disponibile per produrre energia elettrica, ma sono anche la tecnologia più efficiente per la cogenerazione, perché trasformano molta energia in energia elettrica e il resto lo possono recuperare sotto forma di calore, così come qualsiasi altro, diciamo, praticamente tutti i motori che si basano sui cicli termodinamici possono essere trasformati in motori cogenerativi utilizzando in modo utile il calore a bassa temperatura invece che disperderlo. Direi che un po' di cogenerazione ce la facciamo anche in automobile, quel po' di riscaldamento che tiriamo fuori quando abbiamo freddo, appunto è un calore che altrimenti verrebbe dissipato e che viene prodotto dal motore per generare un'altra roba che ci interessa, cioè il movimento della macchina. Abbiamo parlato anche di trigenerazione, che cos'è? La trigenerazione è la produzione contemporanea di elettricità e di calore, questa si chiama cogenerazione, e di freddo, cioè si aggiunge un'altra uscita energetica importante che è il freddo, e il vantaggio è che facendo in questo modo si riesce ad ampliare le ore di funzionamento di un impianto cogenerativo, perché quando non serve il caldo può servire il freddo, che viene utilizzato comunque in modo utile. Ecco, quando si parla di cogenerazione e trigenerazione si sente parlare di rendimenti del 90%, addirittura di più. Come bisogna intendere questo rendimento? Perché se uno pensa al motore di un'automobile, siamo abituati al 30 o al 40. Beh, diciamo, il rendimento con quei numeri così elevati si riferisce al rendimento cosiddetto di primo principio, cioè si pesa allo stesso modo l'effetto utile calore e l'effetto utile energia elettrica, che viceversa hanno un pregio sia termodinamico che anche economico diverso. Certo. L'indice più, diciamo, significativo per valutare le prestazioni di un impianto di cogenerazione è il cosiddetto indice di risparmio energetico, che dice quanto si risparmia rispetto alla produzione separata. Se io ho un motore che ha un rendimento elettrico del 30%, cioè che converte il combustibile in energia elettrica col 30%, ma poi utilizza il 50% del calore introdotto come calore utile, il rendimento complessivo diventa 30 elettrico più 50 termico, 80%. Va bene, grazie Macchi, noi ci risentiremo perché parleremo di microcogenerazione. Volentieri. Bene, Mr. Kilowatt si chiude qui, domani sera parleremo di H3 Hotel, un progetto innovativo di albergo 3 stelle a risparmio energetico che potrebbe presto divenire realtà. Scriveteci a mrkilowatt@radio24.it. A domani.